La voglia di fare la rivoluzione è un po' come l'acne, sorge in epoca adolescenziale, va lasciata sfogare perché talora la sua repressione provoca un'intensificazione della medesima. C'è una differenza, che l'acne non è violenta, non fa male a nessuno se non a quei faccini adolescenziali che vengono a volte trasformati in una specie di suolo lunare. Nel caso dell'acne rivoluzionaria, invece, la questione è un po' più complicata, perché se uno, già da ragazzo o da giovane, pensa che avendo in testa l'idea migliore di società sia autorizzato a fare quello che vuole, allora da grande magari diventa un seguace di Di Pietro. Buonasera a tutti da Anna e Adamolo. Certo, chi ci accusa di non dare voce agli altri e chi ci accusa che in questa trasmissione non c'è contraddittorio, oggi verrà smentito. Infatti oggi analizziamo un articolo del giornale a firma di Paolo Del Debbio. Ma Paolo Del Debbio, quello che conduceva, secondo voi, no? Quel programma di interviste ai passanti. Sì, sì, è proprio lui. In cui tramite domande improbabili tirava l'opinione pubblica verso le tesi che lui preferiva. Ricordo ad esempio quando la domanda era: ma secondo voi bisogna dare più soldi alle forze dell'ordine? La risposta era ovviamente sì, e la tesi che alla fine, le conclusioni che tirava Paolo Del Debbio erano che la maggior parte delle persone amava le forze dell'ordine. Questa è la logica che sottendeva il programma, secondo voi? Sì, in effetti di logica anche in questo articolo ce n'è molta. Ringraziamo il nostro esperto che poi presenteremo. Vai. Allora, noi infatti analizziamo questo articolo del 19 novembre, che è incentrato sulla scarcerazione di uno dei fermati al corteo studentesco a Milano per la giornata del diritto allo studio. E il titolo è: se gli studenti teppisti diventano star. Infatti, allora, citando le parole, dice: stiamo parlando di qualche studente che l'altro giorno camminava a Milano pensando di compiere i primi passi per la marcia verso la rivoluzione di memoria maoista. Sentiamo qua i nostri esperti di antropologia medica e filosofia politica. Sì, sì. Guardi, allora, la lucida analisi politica del giornalista Del Debbio è molto interessante. C'è questo rapporto tra il maoismo, inteso come vecchio spirito rivoluzionario, e Di Pietro. È molto interessante perché spiega che c'è davvero poca differenza tra coloro che scendono in strada e pretendono di fare rivoluzione spaccando vetrine e spaccando motorini, e Di Pietro, che invece l'unica cosa che fa è che fa Di Pietro? Che attacca il nostro governo eletto dal popolo democraticamente senza cognizione di causa, e quindi... E probabilmente ha in mente una lunga marcia verso il Parlamento, questo lo sappiamo tutti, no? Una lunga marcia. E allora c'è anche un collegamento tra la scuola e quindi la maleducazione di questi che rompono le vetrine. Ricito sempre dall'articolo: non aiuta quella che dovrebbe essere una delle principali comunità educanti, la scuola medesima, se le maestre sono arrivate a portare in strada i bambini delle elementari con palloncini con scritte sopra che non si vedevano dai tempi di lotta continua. Figurarsi l'indottrinamento se sono sottoposti, al quale sono sottoposti questi giovani a scuola. Infatti, tra queste scritte, io a quelle manifestazioni c'ero, ho notato un terribile Gelmini vola via, al cui cospetto pagherete caro, pagherete tutto, sbiadisce proprio assolutamente. Ho avuto paura io stesso per questa brutalizzazione del linguaggio. Sì, l'idea poi di vedere questi bambini sottoposti a questa strumentalizzazione, perché bambini strumentalizzati che non potevano andare a scuola, cioè... Immaginate, bambini che magari dovranno fare 150 km al giorno per andare a scuola, così strumentalizzati, allora veniva spiegato che loro facevano 150 km al giorno ogni giorno per colpa del governo, cosa assolutamente falsa e tendenziosa, perché si sa benissimo che è tutta colpa dei governi precedenti, dei due anni di governo precedente, perché questo è soprattutto tutta colpa dei maestri e dei professori che continuano a pretendere di avere la scuola come bacino di iniziazione per futuri indottrinamenti maoisti e dipietristi. È questo il problema grosso. Però qua, diciamo la verità, stiamo parlando un po' a cuore aperto. Noi in realtà siamo qui in funzione di esperti, cioè io sono laureato in antropologia medica e il mio collega in filosofia politica, e quindi seriamente noi abbiamo apprezzato l'articolo di Paolo Del Debbio, perché secondo me in nuce, in questo articolo, c'è un'interessante analisi approfondita del rapporto che ci potrebbe essere, anzi che c'è, tra le malattie della pelle, quali l'acne, e le malattie dello spirito, quali l'acne rivoluzionaria. Io oserei addirittura coniare questo termine di tipo medico, che insorgono, entrambe queste malattie insorgono al momento dello scoppio ormonale. E ciò che, di cui parla Del Debbio, secondo me ha un fondamento enormemente scientifico. Cioè, qui il nostro caro giornalista deve assolutamente approfondire, deve assolutamente fare ricerche. Noi come antropologi medici siamo a favore di questa ricerca. Ti prego, Del Debbio, scrivi questo articolo per noi. Sì, sì, questo articolo scientifico, anche perché in questo momento in cui in Italia non ci sono più menti giovani che si dedichino alla ricerca, perché ovviamente vanno all'estero, perché all'estero vengono pagati e da noi no, stupidi questi qua che vanno all'estero, tra l'altro, l'Italia ha bisogno di menti non più giovani, tipo Paolo Del Debbio, che comunque riescano a tirar fuori delle innovazioni. Ma mi sto dilungando troppo. Sì, sì, sono malattie psicosomatiche queste, si sa. Tra l'altro nell'articolo si nota un'interessante ipotesi, che è quella che della psicosomatizzazione della volontà rivoluzionaria, con questo arguto collegamento tra acne e rivoluzione. E sta a dimostrarlo anche il fatto dei famosi punti rossi, non a caso. Esatto, io voglio dire, i punti mica sono verdi. Cioè, l'acne rivoluzionaria mica può essere figlia della Lega, cioè, sennò uscirebbero i punti verdi. Questo è ovvio. E insomma, che dire. Però, parlando qui e là di acne, direi che a questo punto, dopo aver spinto il nostro Paolo Del Debbio a scrivere questo articolo, e spero che lui ci ascolti e scriverà articoli scientifici invece di scrivere articoli giornalistici, perché secondo me è più portato per gli articoli scientifici. E allora direi che, ma l'acne mi fa venire in mente una canzone di qualche anno fa. Allora, già la scorsa puntata avevamo parlato del caso Eutelia, infatti sono da 3 settimane oramai dura l'occupazione dell'azienda Eutelia a Roma, da parte degli impiegati che sono sicuramente incerti sul loro futuro, ma certi non ricevere lo stipendio da alcuni mesi. E l'Onda Perugia infatti è andata a trovarli. Sì, diciamo che l'azienda, un attimo, io mi presento, sono Anna Damo, ho la stessa voce dell'antropologo medico di prima, ma è solo un caso. E dunque, allora, dicevo, l'azienda Eutelia è balzata agli onori della cronaca qualche settimana fa, quando l'amministratore delegato Landi, insieme ad alcuni vigilantes, ha praticamente forzato di notte le serrande per entrare in questa azienda occupata, spacciando se stesso come poliziotto insieme ai vigilantes. Poi, caso stranissimo, la polizia vera è intervenuta a difesa degli occupanti. Prima volta nella storia, forse. Sì, e forse anche unica, rimarrà questa storia unica. Forse anche perché c'era un giornalista Rai lì per lì, quindi sono stati costretti a essere, cioè, chiamati. I poliziotti hanno comunque giustamente difeso questi impiegati, che pare stessero facendo una occupazione legalizzata. Questo è un termine che ci hanno detto gli impiegati che occupavano, e che ci ha gettato un attimo nel dubbio, perché sì, diciamo, è ossimorica. Facciamo un po' i dotti, eh? Va bene, quindi stiamo dicendo, noi dovevamo andare appunto in qualità di Onda Perugia e coordinamento studenti, docenti, universitari e precari di scuole e università, dovevamo andare a Roma per l'assemblea del 20 novembre alla Sapienza, di cui parleremo nella terza parte, e abbiamo colto l'occasione per andare a trovare questi impiegati delle Eutelia, che appunto sono 3 settimane che occupano effettivamente la loro azienda. Ma cosa è successo esattamente? Nel senso, i temi sono molti, però come hanno fatto ad esempio questi amministratori a partire da acquisti di aziende a 1 euro a finire con dei capitali incredibili, e dunque hanno posto in essere un espropriamento incredibile, un esproprio del lavoro immateriale di questi lavoratori? Come è successo? Sì, praticamente questo va sottolineato. Noi non stiamo parlando di, innanzitutto parliamo di possibili 1200 licenziamenti tra all'ex Eutelia o Eutelia, che praticamente ha delle sedi a Roma, Milano e altrove, e anche le altre sedi, mi dicevano gli impiegati lì, sono comunque in agitazione. Bene, questi 1200 licenziamenti non sono 1200 licenziamenti di persone che appartenevano ad un'azienda in crisi. No, tutt'altro. Anzi, l'Eutelia, che produce fibre ottiche, in sostanza era un'azienda con ottimo capitale sociale, e acquistata, cioè l'Eutelia aveva acquistato 2 anni fa questa azienda precedente che aveva grande capitale sociale, e col capitale sociale, quindi chiaramente accumulato grazie al lavoro degli impiegati e con gli incentivi statali, scusa se ti interrompo, anche grazie alla presenza stessa degli impiegati, certo, per esempio gli incentivi all'esodo, esatto, i vari incentivi, diciamo, che ha ottenuto. Sì, quindi praticamente non solo soldi accumulati precedentemente, ma incentivi, quindi soldi futuri ottenuti perché l'azienda stava lavorando bene. Bene, con questi soldi cosa hanno fatto i nuovi padroni dell'Eutelia? Hanno avviato una grossa speculazione finanziaria che nell'arco di 2 anni ha mandato praticamente l'azienda in bancarotta. E ora l'Eutelia è stata venduta ad una fantomatica azienda che si chiama Omega, di proprietà di una holding che in sostanza ha preso l'azienda, per rilevato l'azienda solo per licenziare tutti quanti. A questo punto gli impiegati, insomma, arrabbiati, sono scesi in lotta. Sì, questa, diciamo che in tutta la sua negatività, questo fatto ha comportato anche una certa dialettica positiva. Come ci diceva una lavoratrice, ad esempio, il fatto che si siano finalmente ritrovati almeno 100 lavoratori insieme è un fatto assolutamente nuovo, in quanto la divisione lavorativa che c'era prima, la partizione, i comparti, rendevano l'ambiente pregno di addirittura la necessità di produrre, perché hanno parlato di necessità, come se, cioè, cosa pazzesca, perché come se gli impiegati, i lavoratori si ritenessero responsabili della produzione dell'azienda, poi in realtà si sono ritrovati che tutto ciò che hanno prodotto è stato loro espropriato, anzi loro sono sul lastrico per lo stesso motivo. E puoi approfondire un attimo questo nesso tra produzione? Sì, no, prima di questo volevo dire una cosa un po' anche leggera, cioè nel senso, noi siamo andati a trovarli in piena pausa pranzo. Purtroppo io avevo già mangiato, quindi non ho potuto godere del pranzo offerto, e abbiamo trovato un'atmosfera molto bella, c'erano un centinaio di persone, anche, diciamo, personaggi politici che erano lì per farsi pubblicità, ed erano maoisti di Pietristi, credo, esatto, che fossero, esatto, famosi. E ovviamente si distinguevano, poiché portavano giacca gessato, chiaramente, perché volevano farsi vedere che loro, certo, erano, certo, parlamentari e non... Ma non sarete andati lì soltanto per scroccare cibo, mi auguro? Cosa ci faceva davvero l'onda per... Anche, comunque, perché quella pasta era buonissima, questo bisogna dire. Sì, io ho mangiato troppo, invece purtroppo non l'ho potuto assaggiare. No, infatti no, non siamo andati lì solo per scroccare cibo, né per ballare con loro o per ascoltare la musica dal vivo che andava di sottofondo, con canzoni sepolte dalla storia, da vetero comunisti proprio. No, siamo andati là per provare a parlare con loro, perché noi, da precari della scuola, studenti, scuola, università, insomma, diciamo precari della conoscenza, usiamo questo termine, stiamo vivendo un momento in cui stiamo vivendo un attacco portato dal governo che è devastante. Noi siamo andati là innanzitutto per capire, cioè per vedere cos'è un'azienda occupata, come ci si comporta, per portare solidarietà umana, ma anche per apprendere qualcosa a livello di comportamento, cioè di solidarizzare, ma anche per parlare del nostro punto di vista e cercare un punto di vista comune. Sì, infatti diciamo che i motivi per cui l'onda di Perugia si è recata a Roma a dialogare con questi lavoratori dell'Eutelia, gli ordini motivi sono 2. Questo che hai appena detto tu della solidarietà umana a persone che vedono messo in grave pericolo i loro percorsi esistenziali, le loro prospettive e anche la mera sussistenza economica. E l'altro ordine è quello di carattere eminentemente politico, e sottende una riflessione che portiamo avanti da tempo. Siamo assolutamente convinti che l'attacco che lavoratori e lavoratrici subiscono è solo una faccia di un generale attacco ai diritti che colpisce altre componenti della società, che possono essere i precari della scuola, gli studenti. E la crisi è stata quella, insomma, che formalmente viene fatta partire nell'ottobre del 2008, è stata per quelli che detenevano il potere economico e politico l'occasione di una ristrutturazione del sistema produttivo e anche di una ridefinizione delle voci di spesa pubbliche. Infatti Tremonti può dire quanto vuole che lui odia i banchieri, eccetera eccetera, ma intanto continua comunque a finanziarli. Fatto sta che i soldi non sono speculazioni finanziarie di questo tipo, esatto. L'unica cosa che mandano in rovina sono le vite, precarizzano la vita degli impiegati e dei lavoratori. Esatto, cioè ci sono 15.000 precari della scuola per strada, non hanno visto una lira. Ci siamo noi studenti che paghiamo una quantità infinita di tasse, abbiamo dei servizi pessimi e non ci viene dato un minimo di reddito né di sistema di welfare. E gli unici soldi che abbiamo visto sborsare ultimamente sono quelli alle banche oppure alla Fiat, che sì, tra l'altro è un filo rouge che lega le tre repubbliche, quello dei finanziamenti alla Fiat. E la stessa cosa avviene all'università, dove la Gelmini che dice sì, di accusare infatti, i baroni. Quello che stiamo dicendo da un mese ormai è che i tagli fatti dalla 133, l'aumento delle tasse, appunto, sono stati pagati, vengono continuamente pagati solo da studenti e da precari, proprio come le speculazioni finanziarie e questo modo di gestire le aziende viene pagato dai lavoratori che vedono espropriato, e ripetiamo questo concetto, vedono espropriato il loro lavoro da parte di chi in realtà non produce niente. Perché non so se era una battuta o no, ma quelli dell'Eutelia dicevano che Landi, cioè l'amministratore delegato, quello che ha tentato di entrare di notte, era un macellaio. Cioè non so se era macellaio per quello che ha fatto, se era davvero solo un i fratelli Landi avevano una macelleria, per dire quanto poteva essere competente in fibre ottiche. Vabbè, insomma, abbiamo parlato abbastanza, e è ora di fare anche uno stacchetto, perché sennò i nostri ascoltatori si stancano. E facciamo, vabbè, preparate un caffè per l'ultima parte. Un caffè per l'ultima parte, come al solito, e andiamo con un'altra bella canzone sepolta dalla storia, che a noi piacciono tanto queste canzoni sepolte. Troppo. Ah, va bene, allora era carina questa canzoncina, me la cantava sempre mia mamma. Sei nata sepolta dagli slogan della storia, dagli slogan degli anni 70. Chi non c'era poi ha dovuto pagarne le conseguenze. Allora, parliamo invece quindi di questa assemblea che hai citato prima, che c'è stata il 20 novembre a Roma, e infatti l'aula di scienze politiche della Sapienza è stata, diciamo, utilizzata per discutere del nuovo DDL della Gelmini e per rilanciare una mobilitazione che riesca a imporre un po' una nuova idea di università e di ricerca, alla quale hanno partecipato non solo studenti, studentesse, anche precari e precari della scuola, e anche qualche professore universitario, vero? Sì, anche qualche professore universitario e anche qualche rappresentante appunto dei coordinamenti precari scuola. E dunque, l'assemblea è stata molto bella perché molto partecipata, c'era gente che veniva da tutte le parti d'Italia, siamo stati 4 ore in assemblea, hanno parlato quasi tutti. E alla fine è stato stilato un documento abbastanza condiviso, nel senso che molti, che potete trovare sul nostro sito Onda Perugia. ondaperugia.noblogs.org. Dico questo perché l'abbiamo rifatto da poco, vi invito a visitarlo. Esatto. E abbiamo anche la pubblicità noi. Sì. La prossima volta facciamo ondaperugia.noblogs.org, il tuo sito, messaggio promozionale. Bene, stavo dicendo, chiaramente c'è un rifiuto totale del DDL Gelmini, anzi c'è un rifiuto ancora più a monte, cioè nel senso che non si può parlare appunto di riforma finché comunque sia non vengono ripristinati i tagli, cioè non si investe davvero nell'università. Ma quello che è interessante è che comunque è passata un qualcosa che anche qui a Perugia, su cui noi qui a Perugia stiamo lavorando, cioè l'idea che l'università in realtà sta ha gli stessi problemi che in questo momento sta avendo la scuola. E infatti la manifestazione dell'11 dicembre che è stata lanciata in realtà è una manifestazione dei precari della conoscenza, cioè una manifestazione di università e scuola insieme, e chiaramente speriamo anche di altri soggetti. E insomma, in previsione di questa manifestazione dell'11 dicembre ci saranno delle iniziative in ogni nodo locale il 2 dicembre, cioè quindi sarà una data nazionale con iniziative locali per lanciare questa manifestazione dell'11 dicembre. E indovinate dove deve arrivare necessariamente questa manifestazione dell'11 dicembre per essere per farsi sentire? Deve arrivare al Ministero dell'Istruzione. Sì, non certo a Piazza del Popolo a sentire Epifani. Ok, perché la CGIL, come il 3 ottobre, ci ha messo anche qua il cappello. Va bene. Ok, che dire? Poi nell'ultima parte del documento si rilancia anche una cosa un po' più ampia di cui abbiamo parlato anche la settimana scorsa, cioè il fatto che il problema non è solo di università e di scuola, ma è anche un problema sociale. Mm. Quindi si parla di reddito. Esatto, si parla proprio di reddito e si parla di un nuovo welfare. Mm-hmm. E insomma, tu cioè l'altro giorno, l'altra settimana avevamo avuto un po' di problemi a parlare di non mi vorrei mica interrogare. No, volevo solo dire che come noi abbiamo capito che non è facile parlarne, così abbiamo visto che riferisco in particolar modo ad un intervento che è avvenuto, uno degli ultimi degli uraniani di Palermo è intervenuto, e cosa ha detto in assemblea? Insomma, ha accusato chi parlava di reddito e di welfare di fare filosofia politica, di parlare in astratto, e poi quando è arrivato alla sua pars construens, alla sua parte propositiva, ha detto che non gli interessava di welfare e reddito, ma lui voleva sanità, voleva trasporti, voleva servizi gratuiti. È importante comprendere che il welfare e il reddito è questo, sono i servizi gratuiti che rendano una vita dignitosa e decente. Sì, è una parte, è sicuramente questo, diciamo la cosiddetta parte di reddito indiretto. Beh, va bene, allora siamo quasi in chiusura, quindi prima di chiudere citiamo alcune cose belle, tipo sì, il fatto che noi studenti abbiamo il diritto alla banca, noi studenti precari abbiamo il diritto alla bancarotta, come ha detto Gigi Roggero, perché visto che ce l'hanno quelli delle banche il diritto alla bancarotta, perché non possiamo averlo noi il diritto alla bancarotta? Tra l'altro attualissimo dopo l'approvazione nel Consiglio dei Ministri del DDL Gelmini, perché introduce proprio il fatto che gli studenti devono indebitarsi. Allora noi diciamo indebitiamoci e dopo dichiariamo bancarotta. Esatto, proprio il prezzo d'onore. Ma soprattutto chiudiamo con questa cosa: quello che ci aspetta non è una guerra, ma è una guerriglia, perché ci sono tante battaglie, piccole battaglie, ma questa guerriglia deve essere una guerriglia costituente. Ora, nelle prossime puntate spiegheremo cos'è questo simbolo, forse. Salutiamo i nostri ascoltatori. Ciao a tutti. E ci vediamo la settimana prossima.